nessuna è perfetta. Viaggio dentro i luoghi non comuni dell'universo femminile. Di Maria Latella. Bentornati a Nessuna è Perfetta, un po' di sorrisi, un po' di passione. Sapete che ci mettiamo tutte e due le cose nelle nostre domeniche, che è chiaro, sono state in questi mesi domeniche influenzate dallo stato d'animo che ciascuno di noi coltivava. Adesso qualcuno è anche un po', come dire, scocciato all'idea di lasciare la tana. Ho delle amiche che mi dicono: ma io tutto sommato in questi 2 mesi mi sono abituata a non uscire da casa e non c'ho più tanta voglia di farlo. Attenzione, attenzione, col sole, con la voglia di vedere un po' di luce torna anche la voglia di vivere, che mi pare sia tornata largamente, soprattutto tra i nostri ragazzi all'ora dell'aperitivo. La scorsa settimana dicevamo, abbiamo parlato di bellezza, perché fa bene al cuore, fa bene allo spirito soprattutto. Oggi parleremo di ricominciare, come si ricomincia ai tempi del coronavirus, ma prima sentiamo alcuni dei messaggi vocali che ci sono arrivati al nostro numero 828 12 12. Gentile Maria, ho molto apprezzato la puntata dedicata a benessere e alla bellezza. Non si deve sempre pensare che parlare di aspetto fisico, secondo me, sia sinonimo di superficialità, anzi. Io per esempio sono convinta che sentirsi bene col proprio corpo sia molto importante per avere anche le giuste energie, la carica che mai come in questo momento di ripartenza reputo sia necessario avere. Buona giornata! Proprio così, è un fattore di energia, proprio come effetto l'effetto positivo del guardarsi allo specchio e sorridersi, no? Ce n'è un altro di messaggio, sempre 828 12 12, ve lo ricordo, ci piace sentire i vostri commenti, quello che pensate, le vostre critiche, tutto quello che vi passa per la mente mentre ascoltate. Nessuna è perfetta, 828 12 12. Buongiorno Maria, io ho ascoltato con molta attenzione e interesse la parte della tua puntata in cui si parlava di cromoterapia. Mi trovo d'accordo con il fatto che la bellezza possa giovare alla nostra salute, in particolare i colori, che sono una manifestazione di energia, riescono a farci recuperare un certo equilibrio emotivo. Anche io, anche se mi occupo di tutt'altro nella vita, ogni tanto mi cimento davanti ad una tela e cerco di produrre qualcosa che dal punto di vista artistico sicuramente non ha nessun valore, però questa cosa mi fa sentire decisamente meglio. Ti ringrazio, buona giornata. Maria, mai come in questo momento mi sono sentita bene e in sintonia con me stessa. Dopo un iniziale momento di down, complice ovviamente la reclusione portata in casa, grazie anche ad una tua precedente trasmissione, ho iniziato a prendermi cura di me stessa, come forse non avevo mai fatto. Che bello scoprire che basta un impacco a settimana per rendere i miei capelli più luminosi. Beh, certo, un appuntamento dal parrucchiere, confesso di averlo già prenotato, ma ho ripromesso a me stessa di continuare a mettere in atto piccoli trucchi di bellezza anche adesso che è finito il lockdown. Un caro saluto. Il parrucchiere era in testa alle aspirazioni di molte di noi e io per prima mi sono tuffata nel negozio di parrucchiere solito perché, perché sì, ce n'è bisogno. Era una questione di vita o di morte. Ed ecco, allora, ora che l'828 1212 è il numero che deve essersi proprio fissato nella vostra mente, che quindi è il numero che aspettiamo, dal quale aspettiamo i messaggi per la puntata che andiamo adesso a esplorare, e cominciamo le nostre esplorazioni come al solito con la nostra Sunday Girl. Chi sarà la Sunday Girl di questa domenica? Una pausa e poi torniamo con i nostri ospiti. Nessuna è perfetta. È il momento della nostra Sunday Girl, le tradizioni che non si perdono qui a Nessuna è Perfetta. Chi sarà mai la Sunday Girl di questa domenica? Bentornata, buona domenica, Iaia Forte, impegnata nella fiction Vivi e Lascia Vivere di Pappi Corsicato, una serie ambientata a Napoli che sta facendo il record di ascolti su Rai 1. Buona domenica, Iaia. Grazie, buona domenica a tutti. Siamo tutti molto contenti del risultato di questa serie che inoltre non solo è girata da un regista che viene dal cinema d'autore, per cui ha una storia diversa, e poi io darei merito a Rai 1 di aver scommesso su un gruppo di donne non giovanissime, che anche con delle storie abbastanza problematiche, che riescono invece a rilanciarsi reinventando completamente la vita. Che è il tema che Nessuna è Perfetta appassiona moltissimo. Noi parliamo spesso di come si ricomincia e nel caso dei giorni nostri, come si ricomincia dopo 2 mesi di vita sospesa dal coronavirus e come si ricomincia in una situazione in cui molti dei lavori che faranno fatica a riprendere sono proprio quei lavori di servizio che vedevano le donne impegnate, perché tante micro piccolissime aziende erano nate in questi anni, i centri di estetica, i parrucchieri, le piccole palestre, i centri yoga, eccetera, erano gestiti da donne. E quindi è proprio questa parte dell'economia di servizio che sta avendo e avrà i problemi più grandi. Infatti, il senso anche delle cose che stava dicendo Iaia Forte, ricominciare in seguito a uno stop nella vita, è proprio la storia che si racconta in Vivi e Lascia Vivere. Vogliamo ripercorrerla insieme? La storia di queste donne che ce la fanno? Dunque, la protagonista Elena Sofia Ricci, è una donna che praticamente perde il lavoro, scopre che il marito ha avuto un figlio da un'altra, insomma, ha una serie di devastazioni. E a quel punto, essendo madre di 3 figli, e avendo un grande talento per la cucina, conoscendo un segreto di un sartù di riso, decide di commercializzarlo, cioè di prendere un'ape e andare in mezzo alla strada a venderlo, e coinvolgerà in questa operazione una serie di donne. Io, per esempio, sono la sorella del marito, che ha avuto una storia tragica, ha perso un figlio, e addirittura, da che facevo la cantante, porto i cani in giro per strada, non ho una lira. Lei mi tira dentro a questa cosa, ridandomi una speranza e una prospettiva completamente diversa rispetto al mio futuro. E noi Anche il siamo tutti personaggio di cinquantenni. Marilù, ecco, il personaggio di Marilù che è interpretato appunto da Iaia Forte, è un personaggio di una donna che poteva, diciamo, scivolare verso un'infelicità e una serie di problemi anche economici seri, che invece ha una chance. Vorrei entrare un po' nel personale, se è possibile, Yaya. Nella vita, quante volte ci sono state crisi, nella sua vita e come ne è uscita? Beh, per me molte. Forse ne sono uscita per naturale vitalità, nonostante sia una natura anche pessimista, per cui non ho un ottimismo di base, però ho una vitalità e devo dire spesso anche aiutata da cose che non sono, che sono a volte anche misteriose, nel senso non. Però cioè, la vita ti, Ne secondo me ti possiamo dire porge una? Io sempre. penso che sia successa a tanto di noi che una fatalità, un incontro fortuito, una cosa che non si sa bene da dove arrivi ci possa cambiare la vita, talvolta in meglio, qualche volta no. Ci racconta questa cosa misteriosa che magari una volta le ha cambiato la vita in meglio. Pensiamo positivo, in meglio, Sembra in meglio. incredibile, cioè in un momento di grosso sconforto, di grossa. Sembra incredibile perché sono veramente cazzate, però era inverno e mi ricordo che una mattina mi svegliai e improvvisamente c'era un tempo diverso, c'era il sole, c'era. E semplicemente questa relazione con la natura, con un evento naturale, mi diede come una luce e l'idea che potevo rilanciare me stessa. Evidentemente quando si fanno questi incontri, che sono, ora ne ho raccontato uno così, però si è già predisposti a una rigenerazione, si è già rinati a se stessi, però siccome la nostra mente più ci inganna più di quanto non lo faccia, secondo me, il nostro istinto vitale, a volte la mente blocca questa cosa e invece basta una congiunzione con un elemento, con un essere umano, con un elemento della natura, con un odore particolare che come dice Proust, ti risveglia delle cose. E capisci che sei pronta per rilanciarti nell'esistenza. Yaya, siccome ci ascoltano anche donne che sono più o meno nella fascia di età della tua Marilù di Vivi e Lascia Vivere e di Elena Sofia Ricci, che sono appunto le donne protagoniste di questa serie TV, magari queste donne stanno pensando: è facile che lo dica un'attrice che poi si ricomincia, magari a lei basta incontrare un regista e le cambia tutto. Ma io che facevo appunto l'estetista nel mio piccolo centro, che devo ancora pagarmi l'affitto di mesi in cui non ho lavorato e le dipendenti che non so se resteranno, dice, non sarà così facile per me ricominciare, non mi basta una giornata di sole per trovare l'energia per ricominciare. Che cosa potremmo dire a chi ci ascolta e magari è attraversata da questi pensieri? Problemi concreti. Io credo che, e questo è esemplare in Vivi e Lascia Vivere, noi donne a volte abbiamo difficoltà a chiedere aiuto alle nostre stesse amiche, alle nostre stesse donne. Invece, chiedere aiuto, mettere in gioco la propria debolezza, che sia economica, che sia psichica, che sia esistenziale, è importantissimo ed è una cosa che sottovaluta, nel senso che a cui non pensiamo, però ci ho pensato proprio in rapporto a Vivi e Lascia Vivere. Alla fine queste donne riescono ad aiutarsi l'una con l'altra perché riescono a chiedere aiuto, cioè aiutatemi. Quindi secondo me questo è un. Perché poi entrare nello specifico come fare a ritrovare i soldi, come fare a rimpiegare un capitale che è stato perso attraverso questo lockdown sarebbe troppo complesso, non è una materia che mi riguarda. Ma non aver paura di chiedere aiuto. Non solo per ritrovare le risorse concrete, uno dice a chi, non lo so, sono problemi complessi. Certo, però chiedere aiuto è qualcosa che bisogna imparare a fare, sono d'accordo, anche perché gli uomini chiedono aiuto. Due ultime cose, Iaia Forte. Primo, nel mondo dello spettacolo c'è ovviamente molta apprensione per quello che succederà, c'è anche però forse una tendenza ad aspettarsi molto dallo Stato, mentre invece forse bisognerebbe fare come le donne di Vivi e Lascia Vivere. E cercare di chiedere, sì, però anche di farsi venire delle idee. Allora, purtroppo il nostro lavoro comunitario, ed è uno di quei lavori che hanno bisogno sia in teatro che al cinema che in televisione, di un pubblico, di una struttura, di una. E quindi il problema reale di. Noi non siamo la Germania o la Francia o l'Inghilterra che hanno dei sistemi di sostentamento degli artisti. Anche quando non lavorano, e noi purtroppo siamo sempre soggetti a un lavoro non continuato e non garantito, perché non abbiamo, diciamo, non siamo stipendiati e garantiti da nessuno. E quindi anche volendo avere un'iniziativa personale, cioè io posso decidere faccio un monologo, ma se non ho il pubblico che lo recepisce è difficile, oppure girare. Giro, non so, un film, non posso perché sono soggetta a delle Certo, quindi insomma strutture. c'è bisogno di una regia e speriamo che ci sia una regia e che ci Sì. siano i fondi. Iaia, grazie, grazie Ma molte per grazie, è essere stato stati un con noi piacere. a Nessuno è Perfetta. Continuiamo a seguirti su Rai 1 con Vivi e Lascia Vivere. Grazie, buona domenica. Grazie, grazie. Attraversiamo confini ogni giorno, piccoli o grandi momenti che modificano l'arco della nostra vita e ci trasformano per sempre. Attimi che diventano storie indelebili nella nostra memoria. Linee d'ombra racconta proprio quegli attimi, piccoli o grandi episodi della nostra vita che ci hanno trasformato nelle persone che siamo, perché le nostre storie raccontano di noi molto più di qualsiasi presentazione. Raccontare, condividere stralci delle nostre vite è il miglior modo per affermare: ecco, io sono questo. Le linee d'ombra che abbiamo attraversato ci hanno mostrato spazi, luoghi e mondi che nemmeno noi sapevamo di poter abitare. Invia un episodio della tua vita che ha a che fare con un confine e il passaggio di quel confine a lineedombra@radio24.it. Una, massimo due pagine. E noi, ogni giorno, ci prendiamo lo spazio e il tempo per raccontarla. Linee d'ombra di Matteo Caccia, dal lunedì al venerdì alle 15 e il sabato alle 21:30 su Radio 24. Quando arriva la cassa integrazione? Dove ritiro i buoni per fare la spesa? Posso sospendere il mutuo e le rette dell'asilo nido? Posso revocare il contratto con il catering del matrimonio? Il coronavirus ha mandato in crisi tutti gli italiani. Mutuo, affitto, bollette, rate e persino la spesa quotidiana per migliaia di persone sono diventati un incubo. Parte così Homo Covid, lo sportello aperto agli ascoltatori che troveranno le risposte di cui hanno bisogno sul sito di Radio 24, in collaborazione con consumerismo.it. Metteremo insieme i vostri quesiti per dare una risposta unica alle domande di tutti. Un prontuario per famiglie e consumatori, lavoratori, liberi professionisti, commercianti e imprenditori. Un canale a cui affidarsi per cercare il supporto necessario ad affrontare una delle crisi più gravi mai vissute prima dal nostro paese. Scrivete a duedidenari@radio24.it e redazione@consumerismo.it. Nessuna è perfetta. Eccoci, eccoci di nuovo. Nessuna è perfetta. Quel che conosciamo dell'Italia ci viene raccontato e ve lo raccontiamo anche ogni mattina con Simone Spezia, dal lunedì al venerdì con 24 Mattino. Ma a noi interessa guardare anche fuori dall'Italia e guardare anche alle crisi, alle altre crisi che si sono susseguite negli ultimi decenni, come si esce, come si è usciti, se si è usciti da quelle crisi? Perché serve per capire anche come ciascuna di noi, penso soprattutto appunto alle energie femminili, può trovare forza e fare riflessioni sulla propria crisi e come uscirne. È sempre bene avere uno sguardo un po' aperto anche fuori dai recinti di casa nostra, e per questo ci può aiutare l'ospite che ci ha raggiunto, che vive a New York, che di crisi, a cominciare da quella famosa su cui sono stati fatti tanti film, quella del 2008, ma tante altre precedenti, le ha viste, le ha vissute, e proprio nel centro del mondo, che è New York. Dunque, buona domenica Gianluca Galletto. Buona domenica a tutti, anche grazie Maria per avermi chiamato. Gianluca Galletto, che è esperto di sviluppo economico e innovazione tecnologica urbana, è stato a capo del commercio estero della città di New York ed è un volontario della Task Force COVID Relief. Allora, prima di parlare delle crisi del passato, vorrei capire che cosa sta caratterizzando la crisi che vive ora a New York, una città che ha affrontato la pandemia forse non essendo minimamente pronta a quello che stava succedendo. Come sta vivendo la crisi in New York adesso? In questo momento le cose sono molto migliorate, nel senso che siamo a un minimo di infetti registrati, di morti, quindi comincia piano piano a riaprirsi lo Stato, in alcuni posti, stanno, alcune regioni stanno riaprendo, la città ancora un po' indietro. È stata presa un po' di sorpresa perché anche diciamo, per chi poi, per un italiano che vedeva la situazione in Italia, è stato alquanto sorprendente la sottovalutazione del problema. Per cui per esempio si è calcolato, è uscito uno studio proprio ieri che calcolava che se la città fosse stata chiusa una settimana prima forse sarebbero evitate 36.000 morti. E questo insomma, è abbastanza importante da registrare. Però la risposta della città e dello Stato è stata molto molto veloce e anche imponente, con una mobilitazione anche del settore privato abbastanza, anche quella una mobilitazione notevolissima, anche perché appunto mancavano le prime due settimane, diciamo durante il picco fine marzo mancavano ancora mascherine e simili, insomma, per i sanitari, testing kit eccetera. E in questo momento però insomma la risposta è stata, come dicevo, sia in termini di quello che diciamo le risposte poi di politica sanitaria, di politica economica. Ecco, a proposito di politica sanitaria, sempre restando sull'oggi, poi andiamo indietro nel tempo, in Italia le forze, le energie più evidenti, no, sono state quelle degli operatori sanitari, in molti casi sono donne. Quindi diciamo che la sanità italiana è stata in gran parte in mano alle donne. A New York c'è stata una donna che si è particolarmente messa in luce sia nel settore scientifico che in altri settori, una figura femminile che ha brillato particolarmente mentre si susseguivano anche le accuse, le accuse politiche dei democratici a Trump, le reazioni della Casa Bianca che ha parlato di un complotto, secondo Trump il coronavirus doveva essere usato contro di lui per fargli perdere le elezioni. Ma a parte le questioni politiche, c'è stata una figura femminile che ha brillato più di tutte? A New York in particolare ce ne sono state varie, non ce n'è una più delle altre, e da un lato innanzitutto anche qui le donne sono state più colpite, sia perché sono la maggioranza nel sistema sanitario, ma anche i posti di lavoro persi, e non solo a New York, anche verso gli Stati Uniti ha colpito molto di più le donne, perché i settori chiusi sono quelli dove c'è una maggiore presenza femminile. A livello di statale e nazionale, chiaramente le donne sono distinte, a livello politico sono sicuramente la Speaker Pelosi, però qui diciamo, un gruppo che sta anche alla testa della città, della COVID Relief Force, che ha messo adesso insieme al sindaco sono, ci sono un paio di donne che la gestiscono, per cui anche poi la, la commissione, l'assessore alla sanità, anche una di quelle che ha insistito anche molto, all'inizio era riluttante, c'era una riluttante sia da parte del, del governatore che del sindaco di chiudere le scuole, di avviare delle misure molto molto rigide e pesanti, e invece i sanitari sono stati quelli che hanno a un certo punto minacciato anche le dimissioni in massa, diciamo, parlo dei, dei, dei vertici, dei, dei, degli assessorati. Se non si fossero chiuse le scuole? Se non si fossero chiuse le scuole, se non si fossero prese, sì, scuole e poi provvedimenti di confinamento. E... Certo, allora... Ecco, questo è un po' anche quello che è successo in Italia. Invece per tornare, perché sennò i minuti corrono e non parliamo di quello che mi incuriosiva, no? Per tornare alle crisi del passato, perché il filo conduttore di questa puntata, di questa domenica è come si esce da una crisi. Ecco, New York e gli Stati Uniti ne hanno passate diverse e piuttosto significative. Tutti hanno in mente il crollo delle Torri Gemelle e la crisi che seguì a quell'evento enorme, hanno in mente gli scatoloni degli impiegati della Lehman Brothers licenziati in tronco in poche ore, e con loro tanti altri impiegati a Wall Street e anche fuori. Ci sono, come dire, dei punti in comune in una crisi? E delle buone pratiche da raccontare per uscirne? Assolutamente sì, New York ha vissuto molte crisi, in parte anche perché è una città che dipende molto dalla finanza, la finanza purtroppo è abbastanza soggetta a queste esplosioni di bolle, per cui, però diciamo settembre 2001 è stata pesantissima anche perché c'è stata una mutilazione della città. 2008, quindi settembre 2001, posti di lavoro persi, un pezzo enorme per tutta la parte, diciamo, la punta di Manhattan, devastata anche per, dal punto di vista della perdita, però la città e quella parte era quasi morta. Nel 2008, stessa cosa, grande perdita di posti di lavoro, anche per, proprio perché c'era finanza, io sono stato diciamo, una delle vittime anche in questo, anche se non in maniera brutale, come quella di Lehman, che lavoravo nella finanza, quindi ho vissuto in prima persona, e poi però c'è stato anche un'altra crisi importante prima del Covid che non è molto conosciuta fuori, ma che è quella dell'uragano Sandy, che ha fatto in tutto 60 miliardi di danni, a New York ne ha fatti 30, sono morte 500 persone, non tutte New York ma nella zona, e in tutti questi casi la reazione è stata molto una città resiliente, una città che diciamo ha messo insieme i pezzi vari della leadership, dal privato, pubblico, non profit, accademia, che insomma si sono poi riuniti sotto una leadership. Quindi per le crisi serve visione, almeno questa è l'esperienza di da qua, visione, leadership, che di qualcuno, in quel caso è stato Bloomberg, poi ci sono stati altri, diciamo, altri leader importanti, ma che possa mettere insieme quello che in inglese si dice convening power, cioè mettere insieme le parti fondamentali della, della struttura socio-economica per poi mettere in atto delle, delle, delle policy, delle iniziative. Allora, molto brevemente, dopo settembre 2001 al City Hall, cioè al comune, vengono convocate tutte le agenzie di, che, hanno, che operano, statali, non statali, federali, che operavano in quella zona, per produrre la visione strategica del futuro. E si è fatta innanzitutto, era stata l'occasione per trasformare quella parte di New York in una parte dove ci fossero anche residenti, perché quella era una parte dormitorio di New York. Chiudevano gli uffici Wall Street e simili alle 6:30 e diventava morta. Adesso e quindi questa è una prima risposta, che vale, Gianluca, questa vale anche per noi, perché qui stiamo parlando di come uscire da una crisi a livello personale, ne abbiamo parlato anche con la nostra Sunday Girl Yaya Forte, ma anche a livello di comunità. Ci sono città in cui si stava costruendo tantissimo pensando che gli uffici sarebbero stati il futuro dell'immobiliare, ora dopo Covid-19 si comincia a pensare che non sarà così e magari quelle residenze potranno diventare residenze abitative. Successe così, a Wall Street, dove prima c'erano solo uffici, ci stava dicendo Gianluca Galletto, e adesso invece ci sono abitazioni e il quartiere è molto più vivo. Ma c'è un'altra cosa che mi interessa approfondire prima di salutarci, Galletto. La risposta che la città diede dopo l'uragano, perché lì si è accorta a New York che non poteva vivere soltanto a una dimensione. Quale fu la risposta dopo quella crisi? La risposta per la crisi fu di generare anche lì una strategia molto chiara per il futuro, e venne prodotto un piano che si chiama Plan NYC, che oggi si chiama One NYC, una città, che è un piano strategico fino al 2050 e viene rinnovato ogni 4 anni e coinvolge tutte le amministrazioni legate al comune di New York, che impone una serie di metri, quindi obiettivi, per rendere la città resiliente a shock economici, shock di tipo ambientale, in quel caso l'uragano, e shock anche sociali. Con De Blasio, diciamo, si è spostato e ha aggiunto questo pilastro. Significa che sono iniziative che sono integrate fra policy, per cui, per dire, leggi. L'ultima legge di questa estate è che tutti i palazzi, che sono i principali responsabili dell'emissione di CO2, devono adeguarsi molto più velocemente a una non emissione, che chiaramente ha fatto incazzare tutta la comunità dei costruttori. Però c'è poi dentro come faccio a diventare la far diventare la città più resiliente, quindi costruire le barriere, come attraggo tecnologia, e questo è stato importantissimo, tecnologia nuova che non solo mi porta soluzioni, per esempio se c'è la luce se ne va, è successo durante Sandy, per 6 giorni mezza manata è rimasta senza luce, oppure come telecomunicazioni delle persone in caso di emergenza, insomma tutta una serie di cose, tecnologie per la sostenibilità, la pulizia dell'aria. Allo stesso tempo io sto attraendo anche imprese che fanno producono queste soluzioni. Lì c'è stata anche una strategia di sviluppo economico che si è innestata sulla strategia post 2008, di dire questa città deve diventare sempre meno dipendente dalla finanza e dobbiamo trasformarla. Infatti New York da allora, con investimenti fatti pubblici e privati, è diventato il secondo hub più importante al mondo dopo Silicon Valley di tecnologia. Cioè adesso la Ecco, differenza con Silicon appunto. Valley è ridotta. Gianluca Ok. No. Galletto, a me l'idea che appunto una città si programmi fino al 2050 con delle verifiche ogni 4 anni sembra il modo giusto, no? Di pensare a come si esce da una crisi e come si coglie l'opportunità nella crisi. Ne parliamo qui perché i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici abbiano anche una visione legata un po' alla comunità, perché tante nostre città si troveranno a dover decidere che cosa fare del loro futuro. E se riescono a pensare un po' come ha fatto la città di New York, come ci ha raccontato Gianluca Galletto, forse sarà una cosa vantaggiosa per tutti i cittadini che vi abitano. Io ringrazio Gianluca Galletto che è stato con noi in collegamento da New York e gli do appuntamento per un'altra volta perché il discorso è affascinante e non l'abbiamo certo potuto concludere in questi pochi minuti di collegamento. Buona domenica, Gianluca. Grazie, anche a voi, felice di essere stato con voi. Nessuna è perfetta. Filo conduttore di questa puntata, di questa domenica, è appunto come ricominciare dopo quello che è successo con 2 mesi di vita sospesa in questa cosa che non ha precedenti nella storia dell'umanità, 2/3 del mondo chiuso in casa, con gli effetti drammatici sulla vita di tante persone, tantissimi affetti che si sono purtroppo persi e tante problematiche nate proprio da 2 mesi di chiusura. Le nostre vite cambieranno dopo il Covid-19, lo dicono tutti, ma purtroppo per molti è un obbligo cambiare, non è una scelta. C'è una storia che ci può dare però come dire, un po' di positività, un po' di ottimismo ed è ovviamente una storia che viene da una donna, lo diciamo sempre, le donne sono resilienti, ebbene, la scelta di Roberta di cambiare vita nel solco delle novità introdotte dal coronavirus non è stata proprio una scelta elettiva, è stata forzata, ma ce lo racconta lei. Roberta D'Onofrio, benvenuta, buona domenica, benvenuta a Nessuna è perfetta, mamma di tre bambini e aveva un lavoro che col coronavirus è sparito. Che lavoro era? Maria, buongiorno. Sì, io mi occupavo da alcuni anni di case vacanze, sono un host, quindi mi occupavo dell'accoglienza dei turisti. Con l'arrivo del coronavirus, era il mio lavoro da un po' di anni, con l'arrivo del coronavirus mi sono trovata da una parte con le case vacanze senza prenotazioni, quindi senza lavoro, diciamo il Stiamo parlando 95%. di Airbnb, per capirci. Sì. Sì, Airbnb. Lei quindi accoglieva gli ospiti che attraverso questa catena, questa multinazionale del turismo, sceglievano di venire a Roma. Ed era un lavoro che svolgeva da quanti anni? Da 4 anni, io vengo dal settore dell'informatica, mi occupavo prima di marketing nel settore dell'informatica, poi con la nascita del mio terzo figlio ho cambiato vita e lavoro e quindi sono ripartita dall'esperienza di una casa vacanze, quindi di una Airbnb come si dice in gergo, che affittavo da tempo e mi sono dedicata a questa attività. E dunque, improvvisamente, quanti ospiti aspettava lei che arrivassero a Roma ai primi di marzo e quante cancellazioni ci sono state? Sul mese di marzo, diciamo, la media delle prenotazioni a Roma, io gestisco appartamenti a Roma, è di 4 giorni, quindi puoi immaginare quante prenotazioni. Ogni appartamento avevamo almeno una 5-6 prenotazioni di turisti e su marzo, aprile, ma anche maggio sono state cancellate. Parlo del 95% considerando anche l'estate. Quindi, Quindi, insomma, il dato è stato subito sconfortante, indubbiamente, ma era normale che succedesse questo. Quindi io da una parte mi sono trovata appunto con le case vacanze senza turisti, quindi senza lavoro. Dall'altra parte sono mamma di 3 figli e continuavo a leggere nelle chat dei genitori, già dall'inizio del lockdown, di questa grande difficoltà che poi abbiamo imparato a vivere un po' tutti, e ognuno ha trovato le sue modalità per sopravvivere, della grande difficoltà di far convivere in casa il lavoro e la famiglia. E quindi l'idea è nata così, è nata così, è nata proprio nel mettere insieme le due cose, quindi B&B Working Quindi Spaces. queste case, lei ha detto, invece di affittarle ai turisti che non vengono più, le affitto a chi ha bisogno di un ufficio temporaneo. Come funziona? E perché Assolutamente sì. dovrebbero venire? Perché dovrebbero venire in un appartamento? A quel punto vanno direttamente in ufficio o no? Beh, in realtà in questo periodo di lockdown lo smart working è stato davvero sdoganato. Abbiamo imparato tutti a lavorare da remoto con i benefici e i problemi del lavoro da remoto e anche l'idea di ritornare. Per chi può ritornare nei precedenti spazi, ecco l'idea almeno a me inquieta un po', corridoi stretti, pensi ad esempio ai co-working a Roma così diffusi, corridoi stretti, stanze con pochi metri quadri dove si sta braccio a braccio. E quindi perché no? Perché non puoi provare a proporre degli appartamenti che hanno tutte le dotazioni necessarie per lavorare da remoto, quindi hanno degli spazi working friendly, quindi delle scrivanie, dei desk banalmente vicino a una presa di corrente dove appoggiare il proprio portatile, hanno delle connessioni wifi ad alta velocità, hanno delle sedie ergonomiche, dei sistemi di accoglienza in self-check-in, che credo che sia anche un elemento molto importante in questo periodo nella logica del distanziamento sociale, e una grande attenzione per la pulizia e la sanificazione. In fondo è semplicemente un'idea ripensata delle case vacanze che si propongono a un nuovo target, perché anche prima io come host ho accolto tante volte delle persone in trasferta, no? Mi chiamava il manager di Milano e mi diceva: senti Roberta, io devo venire settimana prossima perché ho un meeting 4 giorni. e prendo il tuo appartamento e il wifi funziona bene, è silenzioso, c'è un piccolo spazio esterno, e perché no? Quindi chi potrebbe essere il cliente o la cliente tipo di questi appartamenti che prima erano destinati ai turisti e ora possono essere visti come il cambiamento da Covid-19, che diventano appunto uffici? Chi può essere un cliente tipo? Allora, le richieste che abbiamo ricevuto ad oggi sono richieste variegate e comprendono da una parte gli smart workers, la madre che ha la necessità, libera professionista che ha la necessità di concentrarsi su un progetto per 4 giorni a casa non ci riesce e allora chiede informazioni su queste case vacanze. Dall'altra parte può essere anche la piccola azienda che prima lavorava all'interno di uno spazio in un co-working e ha disdetto il proprio contratto per vari motivi, quelli appunto che le accennavo prima. E può essere anche la coppia che ad agosto decide, ad agosto entrambi in smart working, decide di approfittare e di lavorare da remoto, non dalla propria casa, ma da un appartamento in un'altra città. Così lavorando, certo, può anche conciliare la vacanza e fare un po' di turismo. Certo, questa è un'ottima idea, infatti. Come funziona questo cambio? Sono curiosa di capire quando ha deciso, quando si è resa conto, Roberta, che non poteva più programmare la vita di prima, perché appunto i turisti almeno per un po' non arriveranno. E secondo lei quando torneranno? Allora io faccio una piccola premessa su questo, perché la mia grande speranza, come quella di tutti noi host, è quello che il turismo riprenda velocemente, a breve, noi torniamo ad accogliere di persona i turisti nei nostri appartamenti. Io davvero questa cosa non vedo l'ora, però poi razionalmente mi rendo anche conto che non sarà semplice, perché anche con gli aeroporti che a breve ritorneranno ad essere aperti, però ci sarà una domanda delle nostre case vacanze che sarà sicuramente all'inizio una domanda bassa, sicuramente per molto tempo una domanda molto inferiore rispetto all'offerta enorme di appartamenti per turisti. In Italia consideri ci sono 30.000, un numero pazzesco, quindi spero ecco che ritorni questa domanda, ma sono consapevole che sarà difficile all'inizio, e quindi perché non cercare un nuovo target? All'inizio i turisti non ci saranno e magari noi speriamo che i nostri appartamenti siano prenotati magari anche per periodi un po' più lunghi, perché è possibile che una piccola azienda possa decidere di venire a lavorare da noi per periodi più lunghi rispetto ai 3-4 giorni medi del turista. E poi potrà essere un target che si affianca. Esistono tanti sistemi, diciamo, anche nell'arredamento, qui c'è spazio alla fantasia, ci sono società che stanno costruendo, bellissimi, si vedono su internet tanti prototipi, no? Dei desk che poi si chiudono e diventano dei piani, sì, d'appoggio, delle mensole, però poi si aprono e quindi ci sono dietro tutti i cavi per attaccare il proprio portatile. Insomma, io quello che penso è a spazi che sono flessibili, spazi per turisti, ma che si adattano molto bene ad accogliere chi ha smart working e ne ha necessità. Roberta, deve essere flessibile anche la nostra vita dopo il coronavirus? Certo che deve essere flessibile, io da mamma l'ho imparato bene che deve essere flessibile, perché in questo periodo ho dovuto insegnare ai miei 3 figli, il più piccolo ha 4 anni e difficile, il più grande ce n'ha 11, ho dovuto insegnare ai miei figli ad adattarsi, e quindi io penso che anche noi ci dovremmo adattare a quello che verrà, ad adattarci, andare in giro con la mascherina al primo periodo, ad essere molto attenti, no? Attenti a tante cose. Attenti a tante cose, è vero. Grazie a Roberta D'Onofrio che ci ha raccontato la sua esperienza di ricominciare dopo il coronavirus. Buona domenica Roberta, buona domenica a voi che ci avete seguito, e sempre con l'affetto che ci lega ormai da 5 anni, questa comunità di Nessuno è Perfetta che cresce, che sorride, che si arrabbia, siamo fatti così, un po' di sorriso e un po' di passione, tanto. tanta, tanta passione. Ci troviamo, se vorrete, domani, come sempre, alle 8:20, 24 mattino, sempre su Radio 24, insieme a Simone Spezia. E se no, ci risentiamo domenica prossima. Ciao!